Ovunque vendi, Amazon Shipping può gestire la consegna. Offriamo un servizio di spedizione affidabile per tutti i canali di vendita online, garantendo che i prodotti arrivino dal tuo magazzino ai tuoi clienti. Per i tuoi prodotti scegli il loro servizio di spedizione preferito. Amazon Shipping, il servizio di spedizione di fiducia dei tuoi clienti. Va ora in onda Dentro la notizia, a cura di Manuela Gaio. Ordine, ho bisogno di ordine nelle cose che penso e che faccio. La linea del tempo stenta, quasi mancasse il coraggio. Ogni giorno scorre uguale, fra gli altri nove. Pure diverso, mi sento perso. Sospiro mentre sotto piove, di rumore voglio essere immerso. Per mia colpa, mia grandissima voglia. Io mi sento vittima ed innocente di vita vera. Bianca come l'aria, vuota come dietro è l'anima. Melodia, tocca corde nuove, musica. Linfa che sale, una scia che porta morte, soldi, amore, fame, notte, giorni, sangue, siamo acqua, terra, fuoco, aria, mille. Allora, eccoci ritrovati a un altro appuntamento con Dentro la notizia. Abbiamo aperto con un brano musicale, è una cosa insolita nelle mie trasmissioni, con una canzone dal titolo Blu. Abbiamo il piacere, io dico sempre un piacere, quando ho dei giovani artisti che si mettono in gioco e la nostra provincia ne ha tanti che hanno bisogno anche di essere scoperti. Matteo Squaiera, ben trovato. Buongiorno a tutti. Allora Matteo, partiamo a monte. Come nasce la tua voglia di fare musica? Intanto che tipo di musica fai? Dunque, nel progetto della mia band, diciamo che abbiamo fondato insomma da qualche anno, noi cerchiamo in realtà di partire da un'ossatura che è rock. Perché comunque viviamo in un contesto che ci ha un po' plagiato sul rock e però cerca di contaminarsi con quello che sentiamo anche della musica contemporanea, della musica da film, molto, molto emotiva. Cioè, i pezzi, le colonne sonore di solito sono quelle che trainano la moda dei cinque anni, certo, successivi, quindi cerco di rubare con l'occhio e di captare un po' queste tendenze, anche per comunque creare un sound abbastanza contemporaneo. E però comunque la matrice è classica, classico rock, quindi c'è il batterista, c'è il bassista, ci sono i chitarristi importanti e pazzi, quindi come sempre in una band così. E quindi diciamo c'è questa specie di mix, quindi se vuoi un po' cerco di mixare un po' queste sonorità con, per la parte di testo, le scuole dei grandi cantautori, nel mio piccolo ovviamente, cercando di mettere sempre dei testi che siano non banali ma non troppo cervellotici, diciamo, perché poi uno si fa prendere la mano e quindi magari cerco sempre di rimanere sul popolare, però meno scontato possibile. Certo. Come si chiama la tua band? Il gruppo si chiama MSQ and Free Hands, che si scriverebbe come mani libere, però se lo pronunci veloce è come dire friends, no? È un po' questo gioco di parole. Questo gioco di parole anni 60, se vuoi, però comunque mi piaceva perché comunque fa parte di un verso di un brano del nostro primo disco, che ormai ha 3 anni. Primo disco. Beh, ma sei giovanissimo, voglio dire, quindi un bambino. Ma tu sei anche produttore, no? Sì, io sono anche produttore, insieme ad altri ragazzi sempre di questa provincia qua. 5 anni fa, ormai 6 anni fa, abbiamo fondato questo studio che si chiama Il Terzo Mondo Studio. E all'inizio, sai, come ogni cosa, si inizia in una specie di garage, no? Era la vecchia sala prove del gruppo. O la soffitta. No. In questo caso era un fabbricato di lamiera con dei pannelli che avevamo messo per più o meno cercare di insonorizzare e trattare la stanza. E siamo partiti da lì, dopodiché c'è stata l'occasione di spostarci a Paiane, dove c'è la scuola di musica. E lì avete uno spazio adeguato. Lì c'è una struttura bella. Adesso abbiamo fatto gli ultimi lavori l'anno scorso, c'è una sala grande di 55 metri quadri dove possiamo veramente darci alla pasta gioia con le registrazioni, con delle cose anche più importanti, anche band che registrano in presa diretta piuttosto che uno alla volta. Fare anche delle riprese video ne abbiamo fatte, infatti ci sono degli artisti che hanno pubblicato il loro live in studio con delle riprese che le abbiamo fatte in diretta lì nello studio nostro. E che meraviglia, quindi sì, comunque avete delle stanze che sono anche idonee per fare queste cose, perché deve avere una buona acustica, non tutte le stanze ce l'hanno. L'acustica l'abbiamo fatta noi, abbiamo studiato, siamo 3 produttori, quindi diciamo che quindi ne approfitto per dire che l'altro è Giampaolo Rossi e l'altro è Davide De Faveri. E diciamo abbiamo studiato un po' questa configurazione, quindi pesando giustamente i pannelli, quelli assorbenti, quelli riflettenti, per creare comunque una cosa che non sia troppo asciutta, no? Troppo innaturale, ma neanche una cosa che non si riesce a controllare perché troppi riverberi. Certo. Diciamo quello che abbiamo studiato. Sai che mi hai fatto venire in mente quando alle prime radio libere, quando sui muri mettevano i contenitori delle uova. Sì, certo. Era così, mi ricordo. I primi pionieri con le radio libere era proprio così. Quindi sì, anche voi siete partiti da questo container, da questo garage, però insomma ne avete fatta di strada e ancora ne farai tantissima. Avete anche delle tournée in programma? Tournée. O ne avete già fatte anche, penso, no? Più che tournée, diciamo, visti gli ultimi anni dove. Perché abbiamo avuto la pandemia, abbiamo avuto un sacco di problematiche e gli artisti, qualsiasi tipo di arte, ne ha pagato le conseguenze. Eh sì, è stata la prima a smettere e l'ultima a ripartire. È quindi, vero. Diciamo, ci siamo dovuti inventare delle cose diverse. Nel nostro caso, noi abbiamo partecipato a vari concorsi. Quello diciamo a cui siamo un po' più legati, abbiamo anche raggiunto dei bei risultati, il concorso si chiama Sanremo Rock, che è uno spin-off di Sanremo, e per 2 anni siamo andati alle finali nazionali, suonando all'Ariston, quindi sai la famosa lista di cose da fare nella vita, suonare all'Ariston, boh, l'ho fatto. Poi se non è Sanremo quello vero, almeno comunque era la finale nazionale di Sanremo Rock, che comunque... Scusate se è poco, cioè, secondo me sì, sono belle soddisfazioni. È una soddisfazione più che altro, certo. non è per... Il regalo le piacerà sicuramente. L'ho comprato online e non ero certo di riceverlo in tempo. Per fortuna la spedizione è gestita da Amazon Shipping. Un gioco da ragazzi. Offri ai tuoi clienti l'esperienza di consegna a cui si affidano da anni. Amazon Shipping, il servizio di spedizione per tutti i canali di vendita online. Prima di avviare il prossimo brano, un messaggio dalla Roche-Posay per la salute della tua pelle. Sapevi che l'acido ialuronico è un ingrediente essenziale per mantenerla idratata, elastica e giovane? Prenditi cura della tua pelle con Yalubi5 Siero. Con acido ialuronico puro e vitamina B5. Ripara in un'ora, rimpolpa in 4 ore e riduce le rughe in 4 settimane. Provato dermatologicamente, per tutti i tipi di pelle e tutte le età. Dalla Roche-Posay, marca skincare più consigliata al mondo dai dermatologi. Per dire che siamo superiori a nessuno, però uno lo fa se ha la determinazione di farlo, se no, vabbè, sai, c'è il classico cliché che ok, hai il parente, no, che ti spinge, no, così, no? Noi non abbiamo nessuno, però ci abbiamo creduto, e se ci avessi creduto solo io non sarei arrivato a nessuna parte, ma i ragazzi che suonano con me, che sono molto più giovani di me, tra l'altro, perché sono tutti 23 anni, no? 22 anni, 23 anni, quindi sono dei ragazzi, e ci hanno creduto, e per me è stata quella la soddisfazione, cioè che sono arrivati là. E... Sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché sì. Radio ABM è tanto ascoltata all'estero, no? Noi sì. abbiamo tanti connazionali che vivono certo. all'estero. Si sa mai che magari in qualche posto del mondo vi chiamino per fare qualche spettacolo, no? Dove possono contattarvi? Se qualcuno volesse contattarvi per fare un eventuale concerto, magari si avvicina l'estate. Assolutamente, magari. Beh, noi abbiamo le pagine Facebook ed Instagram. E basta cercare MSQ and Free Hands. In questo caso la and si scrive proprio AND, perché Instagram non supporta i caratteri quelli speciali, no? Quindi sarà MSQ and Free Hands. Le trovate su Instagram, su Facebook e soprattutto sul nostro canale YouTube, dove cerchiamo di tenerlo vivo. L'anno scorso, ormai 2 anni fa, abbiamo pubblicato un disco particolare di cover acustiche, però stravolte, e ci abbiamo fatto una web serie. Abbiamo fatto gli episodi come le stagioni di Netflix, no? Abbiamo fatto questa webserie dove raccontiamo delle 100 ore di registrazione che abbiamo conteggiato le ore, no? Quel disco là l'abbiamo registrato in 100 ore fra sovraincisioni, varie parti così. E quindi io dissi ai miei ragazzi, mettiamo 3 telecamere fisse, poi scegliamo, ci dimentichiamo che esistano, perché lì in quel momento usciranno le nostre perle, no? Le nostre cose, i momenti, sai, di vita tipo vera. Un grande fratello, tipo no? Un grande fratello, esatto. E quindi abbiamo selezionato le parti più divertenti, le parti più emotivamente importanti, e ne abbiamo fatto questa serie qua, che racconta un po' come è nato quel disco, gli errori sul set come nei film, no? Quelle cose così. Carino, no? Simpatico, è una cosa un po' insolita, diciamo, però sì. Mi sembra una buona cosa, una bella cosa. Era per rispondere alla tua domanda, nel senso che effettivamente adesso bisogna veramente pensare a un'alternativa, perché certo. suonare nei locali non è, cioè, sono rimasti veramente 2 o 3 i locali e basta. Come mai, secondo te? Perché non ci stanno più dentro economicamente, punto. Cioè, è l'economia alla fine, queste cose qua vengono trainate dall'economia che c'è nel paese. Ma oggi si vive di musica? Pensa che io feci 3 anni fa la scelta di licenziarmi dal lavoro dove ero prima per dedicarmi totalmente a questo. E perché? Perché lo studio cominciava un po' a girare, avevamo un po' di giro, e lo feci nel settembre del 2019, no? E quindi per qualche mese feci così, dopodiché mi sono dovuto inventare una fonte alternativa, perché altrimenti non ce l'avrei fatta, quantomeno, perché siamo stati veramente, lo studio è stato chiuso per 6 mesi, dovevo zero, quindi non ce la fai, e non c'è nessuna forma di supporto, o meglio ce ne sono, ma sono delle... se posso permettermi, sono delle prese per i fondelli, perché non puoi dire dopo 2 anni vi do 1.000 euro se ne avete fatti almeno 1.000 di SIAE in quella, nel 2020. Nel 2020 come facevi a far 1.000 euro di SIAE se non si potevano fare concerti? Certo. Quindi, cioè, era proprio una, no? Una cosa un po' così stupida. E quindi vabbè, ho dovuto trovare un'alternativa, adesso insegno in una scuola, quindi riesco anche a barcamenarti, dai. Sì, riesco comunque a gestire entrambi i lavori e la cosa mi piace comunque, una bella sfida per il futuro. Ascolta, la tua passione per la musica quando è iniziata? Quando eri piccolo? No, in realtà no, non così piccolo, perché quando ero piccolo, sai, in questa provincia qua tutti giocano a calcio, almeno 20 anni fa. Adesso questo magari lo diciamo è un po' sempre differenziato, però 20 anni fa tutti giocavano a calcio, tutti i maschietti, tutti giocavano a calcio, e quindi io giocavo a calcio, a me piaceva giocare a calcio, quindi, e i miei genitori mi dicevano, ma non vuoi provare a suonare in banda, perché lì abbiamo la banda, no? Le bande del paese. E boh, all'epoca mi sembrava una cosa noiosissima, no? E poi invece fu in terza media la folgorazione, i miei compagni di classe, uno era chitarrista, uno era bassista, loro avevano bisogno del batterista, no? E mi hanno detto, ma magari ti andrebbe di suonare la batteria? Io non ci avevo mai pensato, non lo so, non saprei neanche cosa dirti. E uno di loro mi diede una videocassetta di un concerto dei Deep Purple, no? E solo che non lo fece partire dall'inizio, l'aveva fermata nel punto dove iniziava il solo di batteria di una canzone. Quindi io faccio andare la videocassetta, mi guardo il solo di batteria e folgorato. No, mi fa veramente schifo. Non riesco a capire come uno possa fare una roba così. Non aveva musicalità in quel momento, no? Però ho detto, boh, me l'ha prestata, mi guardo tutto il concerto. Quindi riavvolgo la videocassetta e faccio andare il brano, il concerto. Il primo brano che ho ascoltato fu Burn, dal vivo. E lì rimasi folgorato, lì sentii proprio tutta la potenza di quel brano che uscì dalle casse, e soprattutto vedevo, quando inquadravano il batterista, vedevo la perfezione del gesto che lui aveva nell'accompagnare, nel fare gli stacchi, nel fare le cose così. Io da lì ho cominciato questa cosa qua, quindi prima ho iniziato a fare il batterista e poi negli anni mi incuriosivo anche degli altri strumenti, volevo cercare di capire come funzionassero, no, tutti quanti. E man mano questa cosa qua è sempre cresciuta da lì in poi. Comunque hai citato i Deep Purple, che sono dei mostri sacri della musica, comunque, insomma, hanno insegnato veramente a intere generazioni, le Zeppelin, anche i Metallica, ce ne sono tantissime, però i Deep Purple. In quegli anni là, ti considera che, diciamo, nel XX secolo dal punto di vista musicale le grosse invenzioni timbriche sono state la chitarra elettrica, che ha creato un genere nuovo, quindi, ma loro addirittura sono andati oltre, perché loro avevano avuto la brillante idea di prendere un organo Hammond, che quindi è una cosa che fino all'epoca era celestiale, no? Aveva il suono puro così, l'hanno inserito brutalmente dentro un amplificatore di chitarra, distorcendolo, facendo le cose così. E fu una trovata pazzesca, no? Cioè, loro furono i primi a creare quella cosa lì, e quindi sono stati anche innovatori da quel punto di vista lì. Poi avevano comunque dei livelli di interplay fra di loro e comunque di capacità tecniche che, certo, ovviamente sono lì per un motivo, non potevano essercene altri. Hanno contaminato un po' la tua musica? Sicuramente, soprattutto all'inizio. Adesso magari mi sposto più verso altri generi, però all'inizio sì, totalmente. I Deep Purple, le Zeppelin, Rolling Stone? No? No, Rolling Stones? No, scusa, no. Io sono un po' anti Rolling Stones, no, nel senso che, per carità, cioè, è giusto che siano nel posto dove siano, però forse un po' sopravvalutati rispetto a tanti altri gruppi. No, dico, ci fu il periodo quello progressive, dove lì proprio le cose più strane le ascoltavo tutte, e lì si sente l'influenza, molto. E poi ci fu il periodo dove iniziai a ascoltare le musiche da film, a parte Morricone, che comunque è sempre un grande, inarrivabile, certo. Però quando ho cominciato a sentire io ascoltavo le colonne sonore, Più tardi sono andato a vedere, ma chi è che ha scritto, chi è che ha composto questa colonna qua, e vedevo Hans Zimmer, James Horner, John Williams ovviamente sopra, tre metri sopra tutti, e quindi ho cominciato a vedermi quei nomi là, ascoltare quelle cose là, e vedevo come la musica abbinata all'immagine poteva essere molto funzionale, no? Sia in quel contesto lì, sia nei videoclip musicali, perché anche nei videoclip prendi una canzone che ha la struttura di una canzone, e però gli associ delle immagini, ha una forma di comunicazione anche diversa. È da lì che è nata MTV. Esatto. Proprio da questa associazione che stavi citando, no? Sì. Ma e come cantautori italiani, hai seguito qualcuno oppure soltanto influenze straniere? Cantatore italiano, beh, ce n'è uno, ce ne sono molti. Diciamo che il più antico ricordo che ho, che tra l'altro, come dissi oggi in classe, fu anche il primo ricordo che ho della mia vita, fu Oro, Incenso, Birra di Zucchero, che mia zia aveva la musicassetta, la metteva ogni volta che rientrava da lavoro, io mi ascoltavo quel disco lì, e mi ricordo fra le varie cose tipo Diamante, la mettevo, certo, in loop, no? Diamante, non so. Beh, ha una musicalità Diamante che è celestiale, meravigliosa. Sì, quindi diciamo sì, Zucchero in tutte le sue, in tutta la sua progressione dagli anni 80 fino ad oggi, e poi chiaramente io ho gli zii che sono dei fan di Vasco, uno dei miei zii, quando stava aspettando il figlio, cioè stava per diventare padre, e non sapevano se fosse stato maschio o femmina, no? Sally? No, non dirmi. No. Però lui disse, se è maschio, Vasco. Okay. Non ha chiesto neanche il parere alla moglie. Vasco. Quindi, tanto per dirti. È nato un maschietto? No, è nata una femminuccia, quindi hanno dovuto scegliere un altro nome, perché diciamo che Vasca non era la cosa più bella da fare. No, però poi sai, c'è il periodo della PFM, assolutamente sopra da quel tipo di musica. E poi ti dirò che recentemente io non sto denigrando alcuni autori, alcuni cantanti, alcuni artisti che sono forti adesso. Per esempio Marco Mengoni, io pensavo fosse una trovata un po' commerciale, in realtà è anche uno dei favoriti a Sanremo quest'anno. Sì, infatti stasera ascolteremo. No, Mengoni sicuramente ha il suo perché. Mengoni è un talento, certo. E soprattutto si circonda di gente che sa scrivere, ovviamente. E poi ci sono anche quelli dietro le quinte. Adesso, facendo produttore, mi interesso anche di chi c'è dietro le quinte dei vari brani, e produttori italiani, devo dire che spingono un sacco, e ce ne sono nomi sconosciuti, però alla fine è da lì che viene fuori, cioè il prodotto, uno dice no, ma c'è il bravo l'artista, sì, però quell'artista lì magari è bravo perché qualcuno gli ha fatto anche qualcosa dietro le quinte. E questo hai fatto bene a toccare questo. Perché ci dimentichiamo spesso, no? Che dietro ci sono altre persone. Pensiamo a quella che si esibisce sul palco, finisce là, bravo, bravissimo. Sì. Però dietro c'è un gran lavoro. C'è, insomma, una bellissima immagine che racconta questo. Ed è il profilo di un iceberg, no? E tu vedi la parte emersa, superiore, che è il successo. La parte emersa è il successo, la parte immersa è fatica, dolore, fallimento, frustrazione, prova, riprova, sbaglia, ricomincia, e anche dal punto di vista del team di lavoro, appunto dietro c'è il produttore, magari c'è anche l'arrangiatore. Negli anni in cui l'industria discografica non aveva problemi di liquidità, le squadre erano veramente più grosse, perché c'era l'artista, che era colui che cantava, colui che suonava, però prima c'era l'autore, e spesso era l'autore della musica addirittura 3-4, l'autore del testo addirittura 2 o 3, l'arrangiatore, l'orchestratore, poi c'era il fonico, il produttore, produttore esecutivo, così. E diciamo lì effettivamente sono nati dei capolavori, perché ognuno era il migliore nel suo campo, no? Ti dirò che c'erano anche forse meno autori, meno cantautori, meno band, esatto, no? Anche questo è vero. Adesso si fa molta più musica di un tempo. Anche i ragazzi oggi sono più spronati, anche hanno più opportunità anche per proporre la loro musica. Magari ci sono quelli che si fanno una gran gavetta e ci sono quelli che invece il primo botto arrivano subito al vertice, no? Sì, però... Dipende anche che tipo di musica vuoi fare, dipende, perché puoi essere anche una meteora poi, ci sei quest'anno e prossimo anno non ci sei più. Esatto, è lì che si capisce se uno è talentuoso o meno, perché comunque che tu sia spinto o no, alla fine è selezione naturale. Se la gente quel brano lì piace, ma quello dopo non piace più, il destino è un po' segnato. Cioè, segnato. Poi ne rifai un altro, magari ritorni, però comunque non sei mai sicuro, non è mai una garanzia. Il successo, come dissero sia Bocelli che i Beatles, non ha regole. Perché se avesse le regole, è come un'equazione matematica, tu sapresti ripeterlo in qualsiasi momento, applichi una formula, fai invio e il computer ti dice adesso devi fare questo per fare il successo, però non è così, quindi è veramente la bellezza, se vuoi, di questa forma d'arte che non sai mai. Io spesso scrivo delle cose che a me sembrano belle, impeccabili, nel senso non ci sono errori dal punto di vista della composizione, della teoria musicale, dell'armonia, eccetera, eccetera, e chi l'ascolta dice sì, però non mi arriva niente, no? Poi invece magari scrivo quattro cagate, scusa, ma bene, figurati. Quattro accordi, no? Magari molto semplici, magari sempre che uno li ha sentiti, risentiti, perché sono sempre quelli lo stesso giro, però gli ho messo un suono, un timbro particolare, cercato, e molti dicono ah, bella questa. Ma cioè, dove nascono le tue canzoni? Dove nascono? Cioè, dove nascono? Perché tanti dicono ah, vado in montagna, trovo il mio habitat, mi concentro, oppure sono a casa sotto la doccia, mi viene voglia di cantare e lì nascono le mie canzoni. Tu qual è il tuo luogo? Non ne hai uno? No, non c'è un luogo, non c'è una ricetta che è sempre quella. Però posso dirti che lo stato d'animo in cui nascono è un stato d'animo un po' particolare, nel senso che è come se io mantenessi una certa distanza, che non è né tanto né poco, è la giusta distanza dall'argomento che sto pensando in quel momento, da quello che poi sarà il testo e il messaggio, la giusta distanza, perché se sono troppo vicino sono troppo coinvolto emotivamente e quindi vengono fuori delle cose magari più spontanee ma più brutte dal punto di vista stilistico, no? Se invece sono un po' più distante, che quindi è come se facessi una fredda analisi di quello che devo fare, appunto diventano cose magari scritte meglio, però poco incisive dal punto di vista del messaggio, no? Allora devi trovare questo equilibrio delicatissimo, no? E ogni tanto succede. Sai cosa diceva Zucchero? Che le sue più belle canzoni sono nate quando lui aveva uno stato d'animo triste, nel senso o era stato mollato dalla fidanzata dell'epoca, oppure comunque sempre quando c'era un velo di tristezza, di malinconia. Può essere anche Sì, ma non è una regola, non è una regola generale. Alicia Keys scrive che è sempre felice, per esempio, no? Oppure anche Cesare Cremonini, che comunque abita lì vicino, quindi sono della stessa. Cremonini, in realtà, lui dice che, per esempio, lui segue una frase, un'espressione, magari anche tre parole, e se le immagina nel miglior contesto possibile secondo lui, e da lì poi parte tutto, no? Sai che Cremonini sta girando l'Alaska in questo periodo, no? In viaggio. Sì, è in viaggio in Alaska, ha detto che stanno nascendo anche delle belle cose. Poi lui lo troviamo spesso perché a Misurina ormai è di casa, sì, no? Sì, è vero. Quindi possiamo anche incontrarlo. Me l'hanno detto, sì. Quella sarebbe una bella una cosa professionale, perché lui comunque è veramente un artista di spessore, perché se le cose lui proprio, cioè, se le scrive è un animale da palcoscenico. Ed anche è un animale, perché io l'ho visto, è veramente grande, ecco, lui, Jovanotti, anche Jovanotti stesso, comunque sanno tenere il palco, sanno comunque dopo tanti anni anche rinnovarsi comunque, certo, anche perché c'è sempre bisogno di rinnovarsi, perché altrimenti ti fossilizzi, dicevi anche tu prima, e corri il rischio di cadere, insomma. Sì, ci pensa la natura poi, se uno si fossilizza. È come se tu rimani nel bosco, rimani fermo, immobile, il muschio comincia a crescerti sopra, quindi è una cosa un po'... Tu insegni in una scuola di musica? No, io insegno al liceo scientifico. Ah, quindi proprio tutta un'altra cosa. Che strumento insegni? Io insegno matematica e fisica, se vuoi. Ah, proprio non c'entra niente. Io credevo che tu insegnassi musica all'interno di un istituto scolastico. No, gli parlassi ai tuoi alunni, studenti della premiata Forneria Marconi. Ma io gliene parlo comunque. Impressioni di settembre. Io gliene parlo comunque, nel senso che mi ricavo, no? All'inizio di ogni ora io scrivo la lavagna, quella che ho definito la perla del giorno, no? La perla del giorno potrebbe essere il verso di un brano, no? Un verso particolare. Per esempio ieri c'era un brano di Zucchero che è alla fine, che dice seguire un punto all'infinito fino a quando tutto sia un po' più chiaro, no? E quindi scrivo quelle cose là che magari non hanno un significato immediato, no? Allora chiedo a loro, ma secondo voi cosa vuol dire questa cosa qua, no? E cominciano a fare, ma chi è che l'ha scritta? Allora scrivo l'autore Zucchero, ah, andatevi a sentire il brano. E così ogni volta aggiungo, no? Perla dopo perla, giorno dopo giorno, gli aggiungo una... Perché non è facile neanche fare il professore, coinvolgere i ragazzi diventa molto difficile, è un'età particolare anche, dobbiamo dire, però insomma ci sono professori giovani come te che hanno una verba, anche un modo di porsi completamente diverso dalle vecchie generazioni. Una volta entrava il professore in classe, io me lo ricordo, questo è così, fine. Non c'era dialogo con il professore. Il professore bisognava portare rispetto. Questo non toglie che non te lo portino anche a te, però è una maniera diversa di approcciarti, probabilmente. Beh, ma se io faccio così è perché ho una bella classe, no? Cioè, nel senso, effettivamente non ho problemi con loro. Loro sono veramente dei cari ragazzi che ho notato essere, no, potenzialmente, cioè loro in potenza, come si dice, come diceva Aristotele, in potenza sono molto più svegli di noi e sono, sai, come una cosa, no, tenuta ferma da una molla, no, che tu devi sbloccare un meccanismo e poi parte a manetta, ecco. E loro sono così, no? Stanno, cioè, hanno bisogno di qualcuno che, uno, che gli indichi un po' la direzione, e due, che spinga questo tasto magico che puoi farli partire, perché altrimenti rimangono un po' lì, che vorrebbero ma non sanno neanche loro dove, no? E io, cioè, sono contento perché mi rendo conto di questa cosa qua e faccio di tutto per, no? Per scuotere un attimo la quotidianità delle loro vite, che comunque sono molto impegnate, devo dire. Loro sono molto impegnati anche fuori dal contesto. I ragazzi oggi sono molto impegnati, molto. Forse anche troppo rispetto ai nostri, parlo della mia generazione, sì. Noi eravamo, cioè non ci portavano tanto in giro a fare tante attività, comunque era una vita un po' diversa. È per quello che, tanto di cappello a voi che sapete inventarvi anche tutte queste cose, non è facile, sei in un'età in cui questi ragazzi sono anche malleabili, no? Plasmabili, mm-hmm. Su tutto quello che tu dici, loro se hanno, sì, un punto di riferimento, sicuramente stai facendo una grande cosa. Verranno a vedere i loro prof a cantare qualche volta? Assolutamente, altrimenti sai, se no, rimandati a settembre. Rimandati a settembre tutti, è sicuro. Ma non mi hai detto ancora se avete qualche data quest'estate, avete in programma qualcosa? No, allora, date ancora certe no, però di solito noi le mettiamo sempre sulle nostre pagine, appena escono, cioè sto aspettando di concludere con un locale la trattativa a Vittorio Veneto, però ho in mente una cosa un po' più forse ambiziosa, in un teatro con l'orchestra. Questo sarebbe uno dei sogni che... E dici che al Comunale di Belluno non sarebbe possibile? Anche per rivalutare, perché ci sono queste cose, porterebbero sì, un sacco di gente. Sì, io pensavo proprio il Comunale. Devo informarmi, devo chiedere, quindi devo fare anche i miei conti, perché non costa poco, certo. Però sì, l'idea sarebbe proprio il Comunale, perché la struttura si presta a fare sia l'uno che l'altro, a mettere la band, a mettere l'orchestra. Sarebbe una figata. Sì, esatto. Va bene, allora noi chiudiamo questa chiacchierata, Matteo, che è stata davvero molto piacevole. Io ti ringrazio per essere stato qui a Radio ABM. Grazie a voi. E, con che canzone chiudiamo? Chiudiamo con un brano che è uscito da poco, il 20 di gennaio, ed è un brano che ho scritto, mi è stato commissionato da un cliente, e ti racconto la storia. Mi chiama un papà che mi dice: ho la figlia che scrive testi. Beh, ok, cioè, vediamolo, sì. Abbiamo fatto l'incontro così, la figlia ha 12 anni. Ah, piccolina. Piccolina. E leggo il testo. Ok, c'era qualcosina di formale da mettere a posto, però... Tanta roba. Cioè, se io non avessi saputo che ha 12 anni, avrei pensato che almeno 18-19, quindi comunque scriveva con una profondità di pensiero che è insolita per la sua età, no? E quindi, ho preso in mano il lavoro, ho scritto il brano, l'ho arrangiato, l'ho prodotto, e ho trovato una cantante... che è una cantante di Milano che ha studiato con me, perché in questi 3 anni qua, durante la pandemia, hai anche studiato. Ho studiato e ho preso la laurea in produzione musicale al CPM, che è la scuola di Franco Mussida, no? Quindi proprio bella. Hai impiegato bene il tuo tempo. Dai. Ho cercato di non star là con le mani in mano, e quindi ho conosciuto anche dei chitarristi, dei cantanti. Così, questa cantante qua si chiama Laura Casadio, si è prestata volentieri a cantare su questo brano qua, con una voce bellissima, bellissima. Anche lei è molto giovane, ha 20 anni, 21. Quindi. E quindi sono molto contento di aver scritto questo brano, che quindi vede un artista, un'autrice di testi di 12 anni, una cantante bravissima che viene da Milano. Poi vabbè, l'ho scritto io, quindi forse sono il lato più debole della cosa, della catena. E, no, però mi ha aiutato un mio compagno di corso, un ragazzo di Brescia molto bravo, si chiama Marco Pezzali. Che non è parente di Max. Non è parente di Max, che è stata purtroppo la prima domanda che gli ho fatto quando l'ho conosciuta. No, non è. Però è molto bravo anche lui, e abbiamo prodotto insieme il brano. E quindi il brano si intitola Resta con me. E il nome d'arte di questa autrice di testi è Illimè, che è un anagramma per dire Emily, che è il suo nome. Bellissimo. Ecco. Grazie, Matteo. Grazie a voi, mille. Veramente. Grazie. So di avere un difetto che tu non sopporti, non è il fatto di andare male a scuola, ma il fatto che non riesco a parlare, ma io sono così e non posso farci niente. Ci posso provare a migliorare, sarà difficile, anzi impossibile. Ce la faremo insieme. Non lasciarmi così, non è giovedì, ci sono ancora possibilità, vieni davanti qui. Forse fallirò, forse certo no, non ha importanza. Devo dirti che so che per amare è servono tante parole, ne bastano solo due. Baciami tu, non litighiamo più, stiamo assieme. Sussurriamo le nostre parole, i nostri sbagli, tutte le cose che ci fanno stare male. Sarà difficile, anzi impossibile, ma staremo insieme. Se li chiudi non più ora, capisci cosa intendo? Sorvolare le parole, da ascoltare fino in fondo al cuore. Questa canzone la dedico, dedico a te. Questa cosa siamo io e te. Ti desidero più, più di una madre che guarda suo figlio con gli occhi del cuore. sperare, si può solo respirare. Resta con me, sempre con me, non sarà tardi per vivere. Avete ascoltato Dentro la notizia, a cura di Manuela Gaglio.